Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi raccontiamo la storia di un uomo che incarna perfettamente la filosofia del falco e del gabbiano, che ha avuto tanti colpi d'ala nella sua vita, anche con assonanze, perché forse il grande pubblico lo ha conosciuto per la trasmissione Jonathan, Dimensione Avventura, però in realtà lui è molto di più. È stato il primo navigatore italiano a fare il giro del mondo in barcavela in solitaria, l'ultimo dei grandi esploratori, degli avventurieri, un sognatore, un temerario, l'uomo delle imprese impossibili. Insomma, una vita è un simbolo di coraggio, peraltro anche per chi poi ha subito handicap gravissimi. E lui è nato a Milano nel 1941 e fin da ragazzo ha coltivato la passione per le grandi imprese, con una grande vita che lo aspettava. Avrete capito che sto parlando di Ambrogio Fogar, uno che a 18 anni parte e attraversa le Alpi con gli sci per ben due volte, e che poi si dedica al volo libero, rischia al massimo. È uno che durante il suo 56esimo lancio col paracadute subisce un incidente da cui si salva, eppure quel terribile spavento, quella paura di morire non gli impedisce di volare, non gli impedisce di ottenere il brevetto di pilota per piccoli aerei acrobatici. E così ecco che passa alla montagna, al cielo, arriva al mare, sì, perché un giorno si innamora del mare e scopre di averlo sempre avuto dentro. Terra, aria, acqua, per lui ogni elemento va bene e lo stimola, tanto che nel 72 Ambrogio, allora 31enne, decide di attraversare in solitario l'Atlantico del Nord. Eppure è un outsider, non ha lauree, non ha esperienze, la gente del settore lo prende per pazzo. La All-Star è una regata difficilissima, quasi tutti gli esperti del settore lo danno per finito ancora prima che cominci, e invece lui ce la fa, e per buona parte anche senza l'uso del timone, che si rompe quasi subito. E tutto questo ha dell'incredibile. Dopo quell'esperienza Ambrogio Fogar non si ferma, ci riprova ancora, e nel gennaio del 73 partecipa alla regata Città del Capo Rio de Janeiro. Il primo novembre del 73 lo saluta sotto il sole cocente una giovane donna, è sua moglie Maria Teresa. E non contento, alla fine dello stesso anno compie la sua grande impresa. Dal 1 novembre del 73 fino al 7 dicembre 74 compie il giro del mondo in barca a vela in solitario, navigando da est verso ovest contro le correnti e il senso dei venti, 400 giorni. Passa le notti nudo sulla barca a aspettare l'alba. Quando il 5 maggio del 74 fa scalo a Auckland in Nuova Zelanda, racconta ai giornalisti locali che una balena ha capovolto la Sunrise ed è per questo che si è dovuto fermare per ripararla. Tutto questo in un inglese un po' stentato. I was in my place to dry my boat, yes. And a big what is the name? White. Arrive from the back and take me and I go out the surprise. Molto più grande come viaggiatore che come interprete, però alla fine ce la fa, è il primo italiano a riuscire nell'impresa, il terzo di sempre. Così racconterà Radio Rai del suo passaggio a Capo Horn in italiano. Il 27 di gennaio, domenica, il surprise riesce a passare a Capo Horn. Momento importante perché, insomma, è forse il momento più pericoloso dal punto di vista statistico di tutto il viaggio. È importante perché è una zona con caligini, nebbie, venti forti, invece la fortuna mi assiste perché il vento è debole, il tempo è coperto. Vicino all'isola degli Stati, un isolotto che c'è da quelle parti, tantissimi pinguini vengono incontro a nuoto, a surprise, è anche piacevole da vedere, no? L'8 dicembre del 1974 l'Italia calcistica sta parlando del derby Juventus-Torino. Bene, la Juventus, strano a dirsi, viene derubata dell'attenzione, perché tutto il paese si dedica invece all'arrivo di Ambrogio Fogar. Il giro del mondo in barca a vela e la vela in generale si differenzia dagli altri sport perché non ti dà né soldi, né successo, né gloria. però ti dà estetica e poesia. Ecco, per me queste cose non sono comprabili. Io penso che qualsiasi persona, se dentro di sé così ricorda quando si aveva 18-20 anni, forse non tutti pensavano di fare il giro del mondo in barca a vela, ma qualcosa di simile, qualcosa di un po' di grandioso e senza prezzo. Ecco, io in questo senso sono infantile, ma sono contento di esserlo stato. Ma dopo tanti colpi d'ala anche una caduta in picchiata, perché nel 1978 avviene la prima grande tragedia che irrompe nella vita di Ambrogio Fogar. Lui è a bordo del Surprise, la sua barca, e deve circumnavigare l'Antartide, e con lui c'è un amico giornalista, si chiama Mauro Mancini. Mauro è un reporter del quotidiano La Nazione, è un uomo schietto, buono, generoso, sono molto amici, ha una moglie, dei figli, vive a Firenze. Prima di partire il suo collega fraiese della Rai lo intervista, è il 20 ottobre del 77 e fuori c'è il sole. Perché lo fai, Mauro? Perché questo coincide con due ordini di interessi: interessi di giornalista, interessi di cronista e interessi di amicizia, di rapporto con Ambrogio. Ambrogio Fogar e Mauro Mancini sono emozionati, hanno voglia di partire per la circumnavigazione dell'Atlantico, ma non sanno ancora cosa li attende. Il falco e il gabbiano. Siamo nell'ottobre del 1977, Mauro Mancini non sapeva che dopo due mesi il fato avrebbe deciso di mettere lui e Ambrogio Fogar a dura prova. Al largo dell'Argentina, la barca su cui viaggiano i due velisti, partiti il 6 gennaio da Buenos Aires alla volta di Capo Horn, viene affondata da un branco di orche e naufraga al largo delle isole Falkland o Malvinas. In sei minuti la Surprise affonda con il ventre sfondato dal muso di tre orche. I due si ritrovano su una scialuppa di salvataggio gonfiabile con un chilo di zucchero, una tanica d'acqua e un po' di pancetta che sono riusciti a portare con loro in quei pochi minuti di panico. Comincia una interminabile deriva su una zattera che durerà 74 giorni, oltre due mesi, dal 19 gennaio al 2 aprile. Si fanno forza, riescono anche a uccidere due cormorani di cui bevono sangue e mangiano ogni centimetro, un'immagine che ricorda diversi film come la pellicola Castaway, interpretata da Tom Hanks, che solo su una zattera chiama Wilson, una palla a cui ha dato un nome pur di non sentirsi solo. Wilson! Wilson! Se il protagonista di Castaway era solo, nella realtà Ambrogio Fogar e Mauro Mancini sono insieme, si danno coraggio, cercano di sopravvivere. Ma questa volta non ci sono effetti cinematografici, i due uomini dimagriscono a vista d'occhio, sono sempre più deboli e durante quei giorni sulla zattera che vaga nell'oceano, Ambrogio, più giovane, Mauro, 50 anni, capiscono che sono a un passo dalla morte, scrivono lettere. Quelle parole rese pubbliche dopo anni dimostrano quanto fosse forte l'amicizia e il legame tra loro, una complicità che ha resistito nei giorni drammatici del naufragio, quando sono stati costretti a dividere l'aria, l'acqua e il tempo in mancanza di cibo. Così Mauro Mancini scrive una lettera straziante di addio alla moglie Roberta, eccone uno stralcio. Tesoro mio, ho vissuto questi lunghissimi giorni di agonia con il tuo nome, sempre ripetuto e pensato. Scusa del dolore che ti do, ma non è dipeso da un errore umano. Stavamo anzi tornando indietro perché la barca aveva sofferto qualche piccola avaria. Eravamo a 4 giorni di vela da Rio della Plata, quando un branco di orche o balene ci ha attaccato affondando il Surprise in 4 minuti. Ci siamo gettati sul battello di gomma e sulla zattera autogonfiabile con pochissima roba da mangiare. Era la mattina di giovedì 19 gennaio. E adesso sono 3 settimane che stiamo vagando per l'oceano senza che nessuno abbia potuto e saputo cercarci. Oggi siamo a circa 270 miglia a sud di Rio della Plata. Ambrogio Fogar è uomo coraggioso, equilibrato, buono. Ci siamo fatti compagnia con grande fermezza d'animo e questo è già qualcosa. A te, Robby, mio unico grande bene, voglio dire una cosa. Vivi la vita, in ogni istante, perché non vi è regalo più grande. Fogar e Mancini vengono recuperati da un mercantile dopo 74 giorni dal naufragio. Il capitano del mercantile che li ritrova chiede da quanti giorni siete alla deriva e loro rispondono 7-4, nell'inglese un po' approssimativo come abbiamo visto di Fogar. 7-4. 7 or 4, dice il capitano, cioè non capisce se sono 7 o 4 giorni. Ci mette un po' a rendersi conto che quei due uomini, scheletri umani che hanno perso 40 kg, sono in balia del mare non da 7 o 4 giorni, ma da 74 giorni. E poi Mancini telegrafa alla moglie: sono vivo, aspettami. Ma dopo poche ore il giornalista viene aggredito dalla febbre, che diventa una polmonite aggravata dalle condizioni di malnutrizione. Insomma, dopo 2 giorni Mancini muore. Fogar, invece, più giovane, con un fisico più robusto, sopravvive. Appena rientrato rilascia alcune dichiarazioni alla stampa. È il 14 aprile 1978. Volevo ringraziare che siete qua e mi avete aspettato. So che avete dovuto avere molta pazienza. Io credo che avrete però anche la soddisfazione di sentirvi rispondere a qualsiasi domanda che volete, e soprattutto spero che entriamo da subito in sintonia, cioè capite che vi parlo davvero col cuore. Sono stato 74 giorni sulla zattera insieme al grande Mauro. Solo problema, volevo farmi dare un'occhiata al cuore, perché da quando sono arrivato a bordo ho pulsazioni più di 100 al minuto. E domani facciamo una conferenza stampa che può essere lunga quanto volete. Un pezzo della vita di Ambrogio Fogar, come inevitabile, se ne va. Se ne va con Mancini, eppure quella tragedia in mare crea dubbi e sospetti nell'opinione pubblica. Perché Ambrogio Fogar ce l'ha fatta e Mancini no? In un mondo in cui farcela è una colpa, Ambrogio Fogar diventa quasi colpevole di non essere morto con il suo amico. E così Fogar, tornato in Italia, viene messo sotto accusa, scorrono litri di veleno, c'è una specie di processo mediatico televisivo condotto, orchestrato da Maurizio Costanzo, la trasmissione è Acquario. Prima discutono di un caso letterario, perché Fogar è stato anche accusato di plagio per avere copiato nel suo diario di bordo 400 giorni intorno al mondo, edito da Rizzoli, la descrizione di una tempesta da un altro libro. Lui si difende così: lei di tempeste ne ha vissute tante, che motivo aveva di copiare una tempesta ad un'altra? Vede, io quando sono tornato dopo questi 400 giorni intorno al mondo avevo molta superficialità nel trattare quelle che erano le incombenze normali. Diciamo che io ho accettato un termine editoriale che poi non ho potuto rispettare se non arraffando bobine che avevo registrato. Quindi per fretta, voglio dire. Soprattutto per fretta, ma direi anche per leggerezza, perché io, Costanzo, direi di affondare ancora di più il coltello nel mio errore, dicendo che quando è uscito il libro, accortomi che era una cosa grave, avrei dovuto perlomeno intervenire. E poi la trasmissione entra nel vivo, c'è chi insiste a dire che è impossibile che una barca a vela venga affondata dalle orche, come addirittura a insinuare dubbi e maldicenze sullo stesso incidente e sulla morte dell'amico Mancini. Sul palcoscenico c'è anche Giorgio Falche, imprenditore velista, che lo difende a spada tratta di fronte a Costanzo, che riporta la posizione di un comandante della Marina. Le orche in realtà sono dei grossi delfini un po' più seri, e che è molto difficile che le orche provochino questo tipo di disastro. Beh, qui abbiamo due proprietari di barche che hanno perso tutte e due la loro barca a causa di un attacco da orca. La meccanica è sempre la stessa: la orca non si vede mai quando attacca e si vede dopo, quando la barca è affondata. Mancini, ho letto nel libro, ha visto 3 orche immediatamente dopo un naufragio, i miei naufraghi hanno visti 5, mentre nell'attimo prima dell'attacco il mare era vuoto. Insomma, i detrattori sono addirittura più di quelli che difendono Ambrogio Fogar. Tra loro c'è Oriana Fallaci, che invece gli scrive una lettera pubblica di solidarietà. Caro Fogar, ti ho visto in TV. E voglio dirti che se davvero un giorno ti servisse un compagno di viaggio che fuma moltissimo, nuota malissimo, soffre il mal di mare, teme le tempeste più di un combattimento ad Actu, più di una missione con l'A-37 a Kesan, però sa nascondere la paura con tale abilità che gli sciocchi dicono «Che coraggio quella lì!», ti accompagno. Con la barca di legno, non di ferro, perché mi fido totalmente di te. E va da sé che questa sarebbe in ogni senso la più temeraria, la più suicida delle tue imprese. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando le tante vite di Ambrogio Fogar, primo navigatore italiano a fare il giro del mondo in barca a vela in solitaria nel 73 da est a ovest, conosciuto dal grande pubblico per una trasmissione che fece epoca, Jonathan Dimensione Avventura, forse l'ultimo dei grandi esploratori avventurieri della nostra nazione, un sognatore, un temerario, l'uomo delle imprese impossibili, delle traversate oceaniche e anche della avventurosa spedizione al Polo Nord, l'uomo che ha avuto un incidente terribile, 74 giorni in mezzo al mare con un amico che ha perso, e poi un finale tragico, perché l'ultimo incidente sarà quello che lo costringerà a una nemesi terribile, lui che continuava a viaggiare, a volare, condannato all'immobilità. Sì, perché lui, dopo aver perso in mare l'amico Mauro Mancini, non si ferma davanti alla morte, torna a terra, va in montagna, si rivolge al suo primo grande amore. E dopo aver trascorso 2 mesi intensi e impegnativi in Alaska per imparare a guidare i cani da slitta, lui si trasferisce nella zona dell'Himalaya e successivamente in Groenlandia. Il suo obiettivo è preparare un viaggio in solitaria a piedi. L'impresa questa volta è al Polo Nord, in compagnia di un cane di razza Siberian Husky, che diventa famoso quasi quanto lui, il mitico cane Armaduke. Siamo nel 1983. Ammette che deve usare un aereo per 180 km quando si trova alla deriva sulla banchisa. Così l'impresa viene considerata fallita, i media lo accusano con polemiche intense. E deluso a quel punto decide di accettare una proposta per lui molto strana, cioè condurre un programma televisivo. Sono gli anni in cui lui approda appunto alla televisione con una trasmissione che si chiama Jonathan Dimensione Avventura, che diventa un cult della storia della televisione italiana. Con questa sigla molto evocativa, in qualche modo si apriva il programma. E fu un programma molto innovativo all'epoca. Lui girerà il mondo per 7 anni con la sua troupe, realizzando immagini di rara bellezza, spesso in condizioni di estremo pericolo. Insomma, lui è destinato a diventare celebre e molto amato dal grande pubblico. Un'altra caduta in picchiata avviene nel 92, dopo montagne, ghiacci, onde dell'oceano, manca solo il deserto. Fogar non si ferma neanche davanti alle dune di sabbia, partecipa a 3 edizioni della Parigi-Dakar, oltre a 3 rally dei faraoni. E il 12 dicembre del 92 è un giorno particolare, durissimo, che segnerà una svolta definitiva nel corpo e nello spirito. Trauma midollare per l'ultimo solitario Ambrogio Fogar. Questa è la diagnosi dei medici dopo il ricovero nell'ospedale milanese San Raffaele. Durante il raid Parigi-Mosca-Pechino, la macchina su cui viaggia si capovolge dopo aver urtato un sasso. Hai fatto il giro del mondo e poi ti trovi un sasso davanti. Fogar si ritrova con la 2ª vertebra cervicale spezzata, con il midollo spinale tranciato. Insomma, l'incidente gli provoca un'immobilità assoluta, permanente, che ha come grave danno anche l'impossibilità di respirare autonomamente. Da uomo di azione e di imprese estreme diventa un sopravvissuto per miracolo, immobilizzato in maniera assoluta. E nonostante l'immobilità totale, Ambrogio Fogar trova un'altra impresa in cui credere, resistere alla malattia, resistere ai ricordi e credere nella scienza. La speranza nelle persone come me o quelle più famose come Christopher Reeve è una componente che ritengo appartenga alla ricerca scientifica. Certo, dobbiamo sperare che trovino una soluzione. I primi mesi naturalmente sono i più difficili, sono quelli in cui lui chiede in modo insistente alla famiglia di staccare il respiratore, pensa di non farcela. E poi invece, e questo ci deve fare riflettere molto, a un certo punto lui riesce a svoltare e il respiratore non vorrebbe staccarlo mai più. Dice di avere capito che il corpo è solo una macchina che trasporta l'anima e lo spirito di una persona. E così nell'estate del 97 riesce a compiere un giro d'Italia in barca a vela su una sedia a rotelle basculante in un viaggio battezzato Operazione Speranza. Questa navigazione non è certo difficile, vuole idealmente portare tutti quelli come me a respirare la libertà del mare. Nessun destino potrà mai incatenarmi il pensiero, la fantasia, la mente, l'anima. Nei porti dove si ferma, il giro promuove una campagna di sensibilizzazione nei confronti delle persone disabili destinate a vivere su una carrozzella. Ecco alcune bellissime e significative parole di Ambrogio Fogar. È la forza della vita che ti insegna a non mollare mai, anche quando sei sul punto di dire basta. Ci sono cose che si scelgono e altre che si subiscono. Nell'oceano ero io a scegliere e la solitudine diventava una compagnia. In questo letto sono costretto a subire, ma ho imparato a gestire le emozioni e non mi faccio più schiacciare dai ricordi. Non mi arrendo, non voglio perdere. Durante la sua carriera Fogar viene nominato commendatore della Repubblica Italiana, riceve la medaglia d'oro al valore marinaro e anche se è ridotto in gravi condizioni fisiche, lui si impegna sia a livello sociale che ecologico facendo da testimonial per l'associazione dei miolesi e delle crociate di Greenpeace contro la caccia alle balene. Per comprendere i valori umani che Fogar vuole trasmettere basta ascoltare uno stralcio del libro Solo, la forza di vivere, scritto dopo l'incidente. In queste pagine ho cercato di mettere tutto me stesso, soprattutto dopo essere stato così duramente ferito dal destino. Tuttavia, ho ancora un ritaglio di vita. È strano scoprire l'intensità che l'uomo ha nei confronti della voglia di vivere. Basta una bolla d'aria rubata da una grotta ideale sommersa dal mare per dare la forza di continuare quella lotta basata su un solo nome: speranza. Ecco, se leggendo queste pagine qualcuno sentirà la rinnovata voglia di sperare, avrò assolto il mio impegno e un altro momento di questa vita così affascinante, così travagliata e così punita si sarà compiuto. Una cosa è certa: nonostante le mie funzioni non siano più quelle di una volta, sono fiero di poter dire che sono ancora un uomo. Ma dal suo letto Ambrogio Fogar rimane sempre attivo, scrive, risponde alle lettere degli amici, collabora anche con la Gazzetta dello Sport e No Limits World. Insomma, non si arrende, tanto che spera ancora nella ricerca e nella sperimentazione scientifica. Contemporaneamente all'uscita del suo ultimo libro, Controvento, la mia avventura più grande, nel mese di giugno del 2005 arriva la notizia che Ambrogio Fogar è pronto a recarsi in Cina per sottoporsi alle cure con cellule fetali, cure di un celebre neurochirurgo. E nel suo libro scrive così: io resisto perché spero un giorno di riprendere a camminare, di alzarmi da questo letto con le mie gambe e di guardare il cielo. Insomma, un uomo che viene considerato un miracolo umano, ma anche un simbolo, un esempio da seguire, soprattutto per chi subisce lesioni midollari, per chi in qualche modo è costretto a vedere la sua vita cambiare radicalmente. E quell'ultimo libro, che si chiama Controvento, la mia avventura più grande, lo scrive assieme al giornalista e vice direttore del Corriere della Sera, Gian Giacomo Schiavi, che abbiamo con noi. Buongiorno. Buongiorno Enrico, buongiorno ai radioascoltatori. In questo momento, se tu senti il nome Ambrogio Fogar, qual è la prima immagine che ti viene in mente? L'avventura, il coraggio, la paura e poi il sogno di tutta una vita, di sfidare il limite e di cercare dove questo limite un po' finisce, e l'idea di utilizzare il viaggio come metafora, proprio così, del coraggio e della paura, verso mete che sono sempre nuove e che sembrano sempre irraggiungibili. Il giro del mondo, certo. Il Polo Nord poi diventa un'avventura anche impedibile. Certo. Senti, naturalmente, dopo la sua morte Fogar è stato incensato come tutti, insomma non c'è niente di meglio che morire per ottenere consensi, ma da vivo, soprattutto negli anni immediatamente successivi al primo incidente, quello della barchetta per intenderci, la sua figura è stata molto discussa. È stata molto discussa perché era un uomo di avventura ed era anche un uomo di vetrina, era un uomo popolare e amava anche la popolarità e la cercava in un certo senso, e molti cercavano lui proprio anche per utilizzare questo veicolo che poi è diventato un veicolo di modernità, perché ha trasformato anche la narrazione in pubblicità, in spot, e effettivamente ha combinato un po' di guai malamente, copiando un passaggio in un libro che era già scritto da qualcun altro, forse per la fretta, forse per motivi editoriali. E poi il grande, diciamo così, giallo dell'avventura al Polo Nord con Armaduc, e il fatto di quella traversata in aereo che comunque ha creato sconcerto in tanti, perché la spedizione non è riuscita. Però anche in quello c'era un elemento di lealtà e di paura. Lui aveva scritto a matita nella sua tenda al Corriere della Sera, che allora aveva, diciamo così, accompagnato la sua avventura con un diario quotidiano. Aveva scritto: l'avventura è finita, finisce qui, il caldo scioglie il ghiaccio, non posso proseguire perché sarebbe un rischio troppo grande. Però il suo sponsor allora, che era quello che portava il cibo ad Armaduc, gli ha detto: bisogna arrivare a piantare la bandierina al punto d'arrivo. E allora è arrivato un aereo e l'ha caricato. E questo, come dire, gli è costato moltissimo, perché poi ha dovuto giustificarsi. Ecco, sempre devo dire che Fogar ha dovuto giustificare le sue avventure o disavventure, come quella per esempio tragica con Mauro Mancini. Eh beh, certo. La barca. Anche perché noi siamo un paese in cui i perdenti non perdonano nulla a quelli che vincono, in qualche modo siamo in una cultura in cui la ricchezza è una colpa, e in cui farcela, cioè riuscire a sopravvivere all'amico, diventa quasi un atto di cui vergognarsi. È vero, ma c'è una lettera molto bella che poi venne pubblicata, che Fogar non aveva mai voluto rendere nota per non entrare, diciamo così, in un meccanismo di intimità violata nei confronti della famiglia di Mancini. E in questa lettera Mancini diceva che Ambrogio era stato un compagno nella disavventura e quindi sulla zattera straordinario, e lì era nata una solidarietà, un'amicizia da trincea, e lui aveva apprezzato proprio l'umanità di Ambrogio, tutto quello che poi invece gli veniva rovesciato addosso come critica. Però alla fine, dopo quell'incidente tragico, devo dire che ha pagato tutto, e ha pagato anche con un riscatto, con gli interessi. Con gli interessi. Senti, volevo chiudere ricordando l'ultimo periodo delle tante vite di Ambrogio Fogar, cioè la parte post ultimo incidente. Quando lui resta immobilizzato. Esatto. E lì cosa lascia di sé in quel periodo preciso? Beh, lui lascia il coraggio di continuare a vivere, forse con qualcosa quasi di mistico, ritrovando la fede, e soprattutto lanciando dei messaggi che sono dei messaggi di speranza agli altri, e sono il messaggio, per esempio, che cosa importa se non posso correre, per esempio, no? Ma io riesco a sfondare i muri che mi tengono prigioniero in questa casa con la fantasia, e quindi i miei sogni continuano ad essere immortali. E lui in quel momento, in quel calvario, ha continuato a rappresentare il coraggio di vivere e il coraggio di cercare sempre qualche cosa, nonostante una vita che lui diceva una vita caina. Gian Giacomo Schiavi, grazie, il tuo intervento è stato preziosissimo per cercare di riuscire a capire una vita molto complessa. Grazie, arrivederci. Grazie a voi. Il 24 agosto 2005 Ambrogio Fogar si spegne a causa di un arresto cardiaco. Un uomo che ha fatto di tutto, insomma, gli mancava solo un'avventura nello spazio. Così degli scienziati italiani gli hanno dedicato il nome di un asteroide scoperta da loro nel 1988. E così, nello spazio, ora e per sempre, esiste la 25301 Ambro Fogar. Una vita costellata da colpi d'ala, da voglia d'avventura, da grandi ascese e anche, come abbiamo sentito, cadute verticali terribili. Ognuno di noi può rischiare di cadere, ma può anche dare il colpo d'ala che lo riporta verso l'alto, e Ambrogio Fogar lo ha fatto tante volte per tante vite. Se volete mandare i vostri commenti o segnalare altre storie su cui volete che noi si punti il nostro microfono, fatelo scrivendo al falcoilgabbiano@radio24.it, oppure venite a cercarmi nei miei social e nei nostri social, perché lo sapete, se volete mi trovate. Ciao, a domani.